Giorgio, io vi parlo chiaramente. Io secondo me abbiamo perduto il mondiale quando abbiamo fatto uno cazzo. Perché che non c'è te in merda, noi con la camo mi sono a fare allenato, uno è convocato a Cassano e a Balotelli. Qua voi mi potete dire che non che cazzo volete, io perché questa maniera. Allora, voglio, se volete parlare con me calcio, parliamo bene di poveri, voi dico io che lo cambi bene. Lo dico proprio con il massimo dell'onestà e del rispetto, verso le altre categorie. Che verso sono diverse, ma sono diverse per colpa del lavoro, mica per colpa di me. Colpa d'amore. Allora, se mi parli di caso, cioè ti dico che Balotelli non è quello. Sapete che lei è nato a Palermo? Ma che cazzo mi dite a me che è nato là? A me mi interessa che è nato a Palermo. E allora un po' destra. Ma è che è nato a Palermo, Balotelli? E come no? Quindi dalla nazionale di calcio, un bianco, un sonno. Quindi può essere nato pure a realtà a casa tua. Chi è nero, non è quello in me. Ma che cazzo a me? Ma che cazzo sta con? Poi se vogliamo parlare a me, cioè parliamo a me, ma che io resta non è corretto. Ma tu però, non è vero, amico. Ma guarda, io devo dire la verità, ma sempre. Va anche un po' questo qua, che pure l'altra volta mi ha detto che, tenne, che sei d'accordo non con me. Non è vero proprio uno cazzo, niente tu ne. Ci ha detto, si intende a me. Non è vero, Balotelli è non è corretto in merda.